Italia in controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci, l'avete sentito poco fa nel GR, anche nel punto borsa, le parole dell'amministratore delegato di Monte Paschi Fabrizio Viola, una vicenda quella senese che si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, come vi stiamo raccontando qui su Radio 24. Le banche rotte, titola oggi in prima pagina il Fatto Quotidiano, sì, perché oltre ai guai giudiziari di Monte Paschi, come detto, in questi giorni si registrano anche quelli di un altro gruppo bancario importante, la Banca Popolare di Milano e poi quelli del Banco Desio. L'autorità federale elvetica di vigilanza ha costretto alle dimissioni i vertici del credito privato commerciale, istituto controllato a Lugano e ora messo in liquidazione dal Banco Desio. Ma ci racconta meglio quanto ha scoperto uno degli autori dell'articolo di oggi sul Fatto Quotidiano. Buongiorno a Davide Vecchi. Allora Davide, purtroppo si sente male, spero che riusciremo a capirci. Cosa avete scoperto tu e Ferruccio Sansa? Ma abbiamo scoperto questa lettera della FINMA, che è l'organismo finanziario. Davide, ci dobbiamo risentire, rifacciamo il numero di telefono perché davvero non si sente nulla. Nel frattempo farei sentire l'intervista che la nostra Maria Luisa Pezzali ha realizzato questa mattina a Tommaso Cartone, che è l'amministratore delegato del Banco Desio. Lui dice: non c'è stata nessuna radiazione dei nostri vertici in Svizzera. Dicevamo in apertura appunto che di questo invece parla il Fatto Quotidiano. Allora sentiamo le parole di Cartone al microfono di Maria Luisa Pezzali. Questa banca in Svizzera è stata posta in liquidazione volontaria e, come capita in tutte le parti del mondo, c'è un registro dove quando la società si liquida le cariche vengono eliminate. Quindi è un'autocancellazione da un registro. Non l'ha mai chiesto, ha preso atto FINMA della liquidazione volontaria. È un provvedimento fisiologico quando uno dismette un'attività, non è conseguenza di un provvedimento sanzionatorio. Alla base di questa situazione ci sono una serie di operazioni sospette che hanno a che fare con il riciclaggio, questo comunque il rilievo che viene mosso anche dalle autorità svizzere. A questo riguardo lei che cosa mi può dire? Si tratta di questioni del 2008, questo come premessa. Poi evidentemente delle attività si è deciso di non esplicitarle, anche per questione di business, voglio dire, per questione di carattere strategico, quindi si è deciso di chiuderla questa azienda. Lei ha dei dubbi su quelle operazioni? Ma guardi, io non so neanche che operazioni erano. Io sono arrivato nel 2012 qui, il passato non è che mi interessi più di tanto, insomma, non me lo sono neanche posto il problema. Magari se l'è posto Agostino Gavazzi, che era presidente del CDA della vostra controllata svizzera, che è tuttora però nel board del Banco Desio, anzi è il presidente. Non c'è, come dire, una certa inopportunità? Intanto le ricordo che il presidente Gavazzi è stato oggetto di un'indagine al Tribunale di Monza, alla Procura di Monza, indagine che si è chiusa con l'archiviazione. Chi doveva accertare se c'erano o meno delle condizioni di imbarazzo l'ha già fatto e ha detto che non ce n'erano. Anche Banca d'Italia ha aperto un'indagine, ha concluso questa ispezione con dei rilievi pesanti a vostro carico. Si parla di sistemi antiriciclaggio, riciclaggio informatici carenti. Il nesso causale non dovremmo considerarlo, perché la lettera di FINMA è arrivata quando l'ispezione di Banca Italia era finita, per cui nessuna correlazione fra questi due accadimenti. Sono state rilevate delle imperfezioni nei sistemi, entro il 31 marzo sarà tutto definitivamente perfezionato. Mi sembra tutto un accanimento mediatico su questa cosa. Per completezza di informazione c'è anche un'inchiesta sulla controllata nel Lazio. Perfetto, sempre infatti, per un'accusa di riciclaggio. Cioè, l'inchiesta che c'è a Roma riguarda dei dirigenti che operavano nella banca svizzera, nella peggiore delle ipotesi, sanzioni previste di carattere pecuniario, tanto che il Banco Desio chiederà il patteggiamento. Lei si sente di garantire, insomma, sulla trasparenza, ecco, dei vostri sistemi antiriciclaggio? Assolutamente, assolutamente sì, dottoressa. Davide Vecchi, sei ancora con noi? Sì, buongiorno. Hai sentito le parole di Tommaso Cartone? Allora, intanto parla di accanimento mediatico. No, beh, noi riportiamo solo dei documenti dei quali siamo venuti in possesso. Certo. E va detto inoltre che loro hanno super controllato, hanno dei problemi, perché comunque il Lussemburgo, la Brexit, che è una controllata del Lussemburgo, anche lì c'è un'indagine della Consob di Lussemburgo e anche questa è. Davide, siamo sfortunati, non si sente assolutamente niente, io purtroppo sono costretta a salutarti e faremo un altro tentativo, forse l'ultimo, perché altrimenti non riusciamo davvero ad andare avanti. E nel frattempo, nell'ultimo tentativo di beccare Davide Vecchi al telefono, che evidentemente ci fa le bizze stamattina, sentiamo l'altra intervista realizzata da Maria Luisa Pezzali. È un caso interessante, ma attenti al giustizialismo bancario, dice l'economista Giulio Sapelli, che sulla vigilanza di Banca Italia non ha alcun dubbio. Sentiamo Sapelli. Innanzitutto bisogna verificare caso per caso, bisogna leggere le relazioni, sono molto tecniche, è molto facile fare dello scandalismo. Quello che posso dire è questo, che la vigilanza di Banca Italia è migliorata in questi ultimi anni, questo non c'è dubbio. Bisogna dire però che è aumentato, si è intensificato il numero di casi, non tanto di malgoverno ma di malversazioni e fatto di commettere reati da parte di un sempre più largo strato di dirigenti bancari. Questo non solo in Italia, negli Stati Uniti, dove li vengono perseguiti però con enorme durezza e celerità, e come lei sa anche in Svizzera. Adesso la Svizzera, le autorità di vigilanza svizzera sono impegnate in una sorta di riacquistare o di acquistare per certi versi una reputazione che è loro profondamente necessaria, visto tutte le richieste di apertura dei conti, di transparency bancari che la Svizzera riceve e che un tempo non riceveva. Ecco, quindi siamo davanti un po' come alla lepre che è sempre più furba e il cacciatore deve diventare sempre più scarso, avere mezzi più potenti per perseguirlo. Ecco, quindi mi sembra questo il problema, non tanto di una carenza di vigilanza della Banca d'Italia, anche se questo è un caso teoricamente interessante perché c'è un comportamento che interessa due nazioni, quindi sarà interessante vedere le carte ed esaminarle. Nel caso di accuse così gravi come questa, riciclaggio, non dovrebbero esistere dei provvedimenti sospensivi per quanto riguarda i vertici della banca? Adesso è un po' presto per dirlo per quanto riguarda l'Italia. Adesso non bisogna farsi prendere da una mania, diciamo, giustizialistico-bancaria adesso, no? Adesso c'è un po' un fuoco di questo tipo. Sicuramente devono essere presi i provvedimenti commisurati a ciò che si è fatto. Secondo lei questa pressione dell'opinione pubblica sì, potrebbe in qualche modo pesare su Banca Italia oppure no? Spero di no, spero che Banca Italia non si faccia influenzare né dall'opinione pubblica né da pressioni esterne, deve continuare ad operare indipendentemente da quali siano le pressioni dei giornali, dell'opinione pubblica, eccetera. C'è un clima in Italia di giusto risentimento verso operazioni bancarie, soprattutto quelli in derivati, che io nei miei libri ho definito strumenti di distruzione di massa. Naturalmente questi sono stati fatti gravissimi, però non bisogna mai farsi influenzare dalle pressioni dell'opinione pubblica, perché sennò si perde la reputazione e l'autonomia. E ci riproviamo con Davide Vecchi, che questa mattina sul Fatto Quotidiano ha scritto che alcuni dirigenti del Banco Desio sono stati radiati in Svizzera. Davide, eccomi. Allora, forse ce la facciamo. Tommaso Cartone, l'amministratore delegato di Banco Desio, l'abbiamo sentito nell'intervista di Maria Luisa Pezzali, dice che in realtà non si tratta di radiazione ma di autocancellazione volontaria, una procedura normale quando si dismette un'attività. Ma sì, Cartone l'abbiamo sentito anche noi, accanto al pezzo abbiamo pubblicato la sua intervista, però ci dice anche che non faranno mai più quelle operazioni o comunque non le stanno facendo, ma non, nessuno ce l'ha con lui o col Banco Desio, semplicemente sono dei documenti e c'è un dato che comunque a nostro avviso è importante. Loro hanno due controllate all'estero, una è il Lussemburgo che era la Brianfield e questa che è il CPC, cioè il credito che hanno in Svizzera, ed entrambe sono state messe in liquidazione. Su entrambe ci sono due indagini, delle rispettive consob, una in Lussemburgo e una in Svizzera. Ora, la lettera ha toni davvero pesanti. Il cartone sostiene che quella sia una prassi dal che si segue quando una banca viene messa in liquidazione, però è anche vero che i soldi che sono arrivati lì, secondo le intercettazioni anche nell'ambito di un'inchiesta che c'è a Roma e che porterà e che inizierà il processo il 7 aprile, se non ricordo male, comunque prossimo aprile, e che vede il rinvio a giudizio di alcuni dirigenti del Banco Desio Lazio, parlano di ricicla di soldi riciclati in Svizzera, quindi al CPC, queste sono le ipotesi d'accusa. Certo. Quindi non mi sembra che sia un accanimento mediatico, semplicemente cerchiamo sì. di riportare i fatti. In realtà lui parla di imperfezioni dei sistemi informatici di riciclaggio. Ah, quello io non lo so. Lo dovranno accertare i giudici, certo. Il senatore delegato, però nega anche di essere a conoscenza di tutto quello che è accaduto prima, quando in realtà lui è stato chiamato a sostituire l'amministratore delegato precedente, che era Dacci, che è finito intercettato e in alcune telefonate che riporteremo, perché noi domani usciamo di nuovo con la seconda puntata su questa vicenda, in cui appunto anche lui si opera o comunque si interessa affinché alcuni soldi arrivino in Svizzera. Grazie a Davide Vecchi del Fatto Quotidiano, grazie a Maria Luisa Pezzali per aver realizzato questo approfondimento per Italia in Controluce, che torna domani alle 13:30.